in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Avrei pensato di fare così oggi, prima una panoramica sui titoli e poi ho fatto una scelta tra le decine e decine di analisi e articoli che ci sono sia sul golpe a Istanbul, il golpe fallito, e poi naturalmente anche ancora approfondimenti sulla strage di Nizza del giorno prima. Cominciamo quindi dal Sole 24 Ore che per la prima volta da tanto tempo ha proprio un titolo, non ha un titolo prettamente economico, ma titola sul golpe turco fallito, tensione con gli Stati Uniti. L'analisi in questo caso è di Alberto Negri, poi ne leggeremo un pezzetto e si intitola Erdogan più forte, la Turchia più debole. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche l'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasto, come ogni domenica, Bruno Forte, che parla di accoglienza. Sull'accoglienza dell'altro si misura la propria dignità e quella della società. E poi un focus che vedremo nelle pagine di Finanza sulla grande battaglia, forse sarebbe meglio dire guerra, di cui però l'ultima battaglia è stata venerdì, per il controllo del gruppo RCS che controlla il Corriere della Sera e la Gazzetta. Come saprete, se ne è parlato tanto. Questa guerra sostanzialmente era tra due cordate, quella guidata da Urbano Cairo e quella guidata da Andrea Bonomi del fondo Invest Industrial, e ha vinto Cairo. Però naturalmente domani, oltre a esserci un CDA straordinario di Cairo Communication, ci sarà anche la prova della borsa per tutti i titoli coinvolti. Per quanto riguarda la lettera al risparmiatore, questa settimana Vittorio Carlini si concentra su Terna, che è la società che gestisce la rete elettrica. L'obiettivo di Terna: più efficienza in rete, CAPEX, cioè Capital Expenditure, cioè gli investimenti concentrati sul mercato interno. Il Corriere della Sera, sempre appunto, titola sulla Turchia, in questo caso il pugno di ferro di Erdogan, e l'approfondimento è di Beppe Severgnini su questo ruolo che hanno avuto i social media in questo strano, possiamo dire, golpe. La storia corre come un torrente in diretta social, dove ci porta. Poi però, in realtà, se questo è il titolo principale del Corriere della Sera, a centro pagina, subito sopra c'è, come dicevamo, anche l'approfondimento su Nizza, perché come avete sentito nei GR, negli approfondimenti e come scrivevano già i giornali ieri, è molto difficile per i parenti avere delle informazioni anche quando si recano proprio negli ospedali. E quindi il titolo: Nizza, paura per gli italiani dispersi. La Repubblica, la vendetta di Erdogan, e anche qui un riferimento alla strage di Nizza. È stata ritrovata, come avrete sentito, un'italiana di cui si erano perse le tracce, Marinella Ravotti di Cuneo, è in rianimazione, ma Repubblica dice mistero sui dispersi, perché appunto è molto molto difficile riuscire a capire dove sono gli italiani, e non solo gli italiani, che non hanno più dato notizie di sé dopo la strage di giovedì sera. Anche in questo caso c'è un approfondimento sulla parte social di questo golpe, possiamo dire, e quello firma Lucio Caracciolo, che è un grande esperto di geopolitica mondiale, nonché direttore della rivista Limes. Il pezzo si intitola Social batte tank, cioè carro armato, nella notte tragica. E poi vi segnalo, la Repubblica è forse l'unico giornale che lo mette in prima pagina, la storia sicuramente triste alla vigilia delle Olimpiadi che inizieranno il 6 di agosto, di Gianmarco Tamberi, che è il nostro saltatore in alto, aveva appena stabilito il record agli europei e tentando un 2:41 invece dopo aver segnato il record italiano si è infortunato e ha detto questa frase molto, secondo me, molto semplice, ma che mi ha molto colpita: ridatemi il mio sogno, perché con la rottura parziale del legamento della caviglia non potrà partecipare alle Olimpiadi. Il Messaggero: golpe fallito, pugno di Erdogan, e in questo caso gli approfondimenti anche qui sono tantissimi. Vi segnalo in particolare quello di Mario Aiello, che si concentra sul boom economico che la Turchia ha conosciuto sotto la leadership di Erdogan. Modernità e Islam, così il sultano ha vinto le sue battaglie, osteggiato dall'elite, amato dal popolo, un ritratto di Erdogan. Il Messaggero è l'unico giornale che mette in prima pagina con molto rilievo Ancora le conseguenze dello scontro fra treni, c'è questo giallo degli orari, l'avete sentito anche nel GR, poi un po' di cronaca sui funerali di ieri, funerali di 13 delle 23 vittime, perché le altre famiglie hanno scelto funerali in forma privata. Questa frase molto forte del vescovo detta ai funerali, che un po' tutti riprendono: il sud considerato da sempre periferia. Ultima prima pagina, prima di lasciarci per le informazioni sul traffico, La Stampa: Turchia, la vendetta di Erdogan. E qui in questo caso una notizia che solo La Stampa mette in prima pagina, un appello dei sindaci, basta migranti, un appello a Renzi: dalla Campania al Piemonte, senza risorse il fenomeno diventa ingovernabile. L'approfondimento poi alle pagine 12 e 13 della Stampa. Una pausa però per il traffico. In primo piano. Rieccoci sulle prime pagine dei giornali, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Arriviamo all'Avvenire, anche in questo caso il titolo principale è dedicato alla Turchia: colpo e contraccolpo, sventato nel sangue il golpe militare, perché ricordiamo che i morti accertati finora sono 265. E poi due notizie che solo l'Avvenire mette in prima pagina: una viene da Napoli, dove il cardinale Sepe ha deciso di donare ai poveri tutti gli alloggi della diocesi. È un tema molto controverso questo delle proprietà immobiliari della Chiesa, non solo della Chiesa napoletana ma in generale, e anche il cardinale stesso è stato spesso al centro di polemiche, da una parte una volta per una parentopoli e poi per la sua costante presenza alle cerimonie in cui il sangue di San Gennaro viene liquefatto. Però questo è un gesto molto concreto che Rosanna Borzillo sull'Avvenire definisce la carezza del pastore a chi è nudo. E sempre dalla prima pagina dell'Avvenire, ripeto, anche gli altri giornali ce l'hanno, ma non con questo risalto, la convention repubblicana. Trump a Cleveland, incoronato tra le proteste. Da 50 anni una manifestazione negli Stati Uniti non destava tanta preoccupazione. Dai patiti delle armi agli antirazzisti, sono migliaia gli attivisti in città e la polizia è schierata. Il giornale: l'ISIS festeggia due volte. E mette insieme il giornale il golpe fallito della Turchia e l'attentato di Nizza, come sapete, rivendicato dall'ISIS. Qui la cronaca, possiamo dire cronaca, insomma, più che cronaca è già tutto un pezzo di opinione, è di Fiamma Nierenstein, comincia in prima pagina e segue a pagina 4. Il Libero: fanno il tifo per il dittatore e non se ne vergognano. Questo è un pezzo molto critico su Erdogan, sicuramente ci sono degli spunti interessanti, perché sulle prime reazioni sono state anche dagli Stati Uniti di monito a ritornare alla normalità senza esagerare con la repressione, cosa che appare molto difficile perché oltre al numero degli arrestati, che è in alcune migliaia, Erdogan ha anche detto che sta pensando di ripristinare la pena di morte. Il commento è di Filippo Facci: il golpe democratico, che insomma una specie di contraddizione in termini, è andata male alla Turchia e a noi. Lo trovate poi a pagina 5. Un altro commento che poi trovate a pagina 15 sulla vicenda del Corriere della Sera è di Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che fa un ritratto di Urbano Cairo: un padrone bottegaio ha sfilato il Corriere a 100 padroni incapaci. Il Fatto Quotidiano ha un titolo, una prima pagina nella parte alta divisa a metà tra il golpe di Erdogan e in un certo senso è sulla stessa linea di Libero, perché il titolo è Europa inchino al controgolpe turco di Erdogan, e poi il titolo su Nizza: 30 italiani spariti e accuse al governo inetto. Sapete che in Francia si sta scatenando appunto una serie di polemiche incredibili sulla gestione delle informazioni nei mesi scorsi e sulla gestione adesso della crisi, per appunto come si sta cercando di reagire a Nizza e nelle altre città francesi considerate a rischio. In prima pagina, solo sul Fatto Quotidiano, questa inchiesta di Firenze che ha al centro Andrea Conticini, che è il cognato di Matteo Renzi: ecco come quei soldi dell'UNICEF sono finiti alla società di Renzi. Il ruolo del cognato del Premier è quello che il Fatto Quotidiano definisce l'affare di famiglia. L'Unità: non vogliamo i colonnelli, golpe fallito la Turchia di Erdogan grazie all'appello alla resistenza degli odiati social, 200 odiati social, perché sapete che Erdogan in passato più di una volta li ha oscurati, però poi sembrerebbe, almeno in questo caso, si è in un certo senso salvato anche grazie alla potenza dei social network che amplificano i messaggi in tempo reale. Il manifesto Cose Turche con la K, la foto è di alcuni manifestanti dopo il golpe che salgono su uno dei carri armati di quei militari che appunto avevano tentato il golpe. Unico giornale che mette questa notizia in prima pagina, il manifesto, un aggiornamento sulle stragi dei migranti, i desaparecidos del mare, poi trovate il pezzo a pagina 11. La Gazzetta dello Sport ovviamente ha una prima pagina tutta dedicata al calciomercato in mancanza di campionato, di partite vere e proprie, e poi approfondimenti sulle due tournée dell'Inter negli Stati Uniti e del Milan in Francia. Ma veniamo, come vi dicevo, un po' alle analisi che ci sono sui giornali, ce ne sono davvero tantissime, e vi dicevo quella di Alberto Negri, che termina così: ci si può lamentare di un golpe in un paese che l'Unione, quella della Germania e della Francia, ha sistematicamente tenuto in sala d'attesa per poi richiamarla al suo dovere di paese ponte tra est e ovest soltanto quando faceva comodo? Le risposte le conosciamo. Archiviato il filo atlantismo ereditato dalla guerra fredda, oggi Erdogan non dà niente per niente, neppure agli americani, che per questo sono assai nervosi. Erdogan in questo momento ha in mano la situazione, trascina i supporter ad acclamarlo in piazza e passa con la falce per tagliare le gambe non solo ai golpisti, ai giudici, agli oppositori. È l'ora delle purghe, delle vendette. Prima finisce e meglio è, per la Turchia ma anche per noi, come hanno dimostrato tragici esempi nel mondo arabo e nei Balcani. Sui regolamenti dei conti le nazioni non si costruiscono ma si distruggono, è solo questione di tempo. E poi, in perfetto stile Sole 24 Ore, un interessantissimo approfondimento di Carmine Fotina sui rapporti economici tra Italia e Turchia. A rischio 3 miliardi di esportazioni. Nel 2015 l'export verso il paese euroasiatico era cresciuto del 2,8%. La meccanica, che è anche il settore industriale leader in Italia, è anche il settore leader nelle esportazioni. Dall'Italia al 5% di tutto quello che Ankara importa, la metà della quota della Germania, però noi siamo comunque a un posto superiore a Francia e Spagna. E poi dal Corriere della Sera, ma c'è anche su Repubblica, un breve intervento di Orhan Pamuk, che è uno dei più grandi scrittori contemporanei, è nato a Istanbul ed è anche premio Nobel per la letteratura. Si intitola La mia notte davanti alla TV. Nella mia vita, dice, ho visto 3 golpe andati a buon fine e 3 no. Hanno tutti creato alla Turchia problemi maggiori e reso le persone meno felici. Sono contento però del fatto che i partiti di opposizione siano stati subito critici nei confronti del golpe fin dalle prime ore. Il futuro della Turchia è la democrazia, e speriamo che sia davvero così. Sempre dal Corriere un'intervista a Marc Augier, l'antropologo, il sociologo francese, sapete forse, non so neanche se ne è tanto contento, ma è diventato famoso soprattutto per la famosa definizione dei supermercati e dei centri commerciali come non luoghi, ma qui è molto interessante perché cerca di sondare questo mistero, secondo me insondabile, di come uomini giovani, in qualche caso anche donne, decidono di dare la morte a se stesse e di darla a tante altre persone. Il titolo dell'intervista di Maria Serena Natale: serve un'idea forte di umanità per ridare sacralità alle persone. Vi dicevo, l'articolo di Lucio Caracciolo lo trovate a pagina 7 della Repubblica, social contro tank, così iPhone, Twitter e Facebook hanno combattuto i militari. A proposito sempre di cercare in qualche modo di capire che cosa porta questi giovani, soprattutto perché colpisce appunto l'età dei kamikaze a commettere quello che commettono, un articolo dello psichiatra Massimo Ammanniti a pagina 12 della Repubblica: nella mente del killer, un soggetto ai margini per cui la fede è un pretesto. Sapete che nonostante la rivendicazione dell'ISIS ci sono state dette molte cose sul killer di Nizza, sul terrorista di Nizza, e pare appunto che fosse una specie di disadattato con gravissimi problemi economici, problemi di famiglia, e all'inizio qualcuno dei vicini aveva detto oh no, una persona perfettamente normale, poi qualcuno ha cominciato a dire no, tanto normale non sembrava. E Ammanniti scrive: per tornare ai nostri giorni, ai comportamenti efferati dei terroristi che hanno seminato la morte, scavando nel loro passato si scopre che molti di loro erano stati condannati per rapine, spaccio di droga e atti antisociali, sicuramente indice di una vulnerabilità personale. Solo successivamente era avvenuta la loro affiliazione nelle file del terrorismo organizzato, che ha fornito una pseudo-ideologia con una coloritura religiosa, perché non è una vera fede religiosa quella che ne ha consentito la trasformazione da piccoli delinquenti a combattenti e martiri per un ideale superiore. E sempre in questa pagina di Repubblica a fianco c'è un articolo di Marco Preve che ha intervistato un po' degli psicologi, dei medici, ma soprattutto degli psicologi specializzati in gestione delle crisi, che sono sul luogo per cercare di capire, per cercare di aiutare soprattutto i familiari, ma anche le vittime, quelle che sono in condizioni, magari sono feriti, ma non in modo gravissimo. Nella mente delle vittime, incubi e sensi di colpa, così li aiutiamo a capire. Un approfondimento sempre sulla questione della Turchia e del golpe interessante lo trovate sul Messaggero, che titola: l'accordo sui migranti ora rischia di saltare, Bruxelles teme che Ankara possa modificare le condizioni del patto, sapete, quello in cui in cambio di ingenti fondi la Turchia si era impegnata a gestire se non altro i migranti siriani. Abbiamo ancora qualche secondo prima della pausa per il traffico, e allora sempre sulla questione RCS Corriere della Sera vi segnalo l'articolo a pagina 17 del Messaggero. Il piano Cairo parte dal nuovo CDA, che come abbiamo detto tra l'altro domani ci sarà un CDA straordinario di Cairo Communication e poi aspettiamo quello di RCS. E poi vi segnalo un aggiornamento sulla legge sulla concorrenza, che porterà, e ne parliamo spesso qui a Radio 24, a una assicurazione auto per esempio più leggera. E ci lasciamo però ora un attimo per la pausa, non per il traffico ma per il meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Stavamo leggendo segnalando alcuni commenti, alcune analisi sulla questione del terrorismo, e dalla Stampa vi segnalo un'intervista interessantissima a Tikhon Sevkunov, che è un alto prelato della Chiesa Ortodossa ed è anche il confessore di Vladimir Putin. Perché il collegamento col terrorismo? Beh, sapete che in Russia e Putin stesso in prima linea ha combattuto contro il terrorismo ceceno e altri tipi di terrorismo. Il titolo dell'intervista di Francesca Sforza è: Putin ha vinto sul terrore, ma voi non l'avete compreso. È veramente interessante, anche perché sapete che di Russia comunque si parlerà ancora nelle prossime settimane, per la questione delle sanzioni, per esempio, e per il fatto che per queste sanzioni l'export italiano ha molto sofferto, ha sofferto anche il turismo, che i russi erano tra i primi turisti fino a un anno e mezzo fa, e ora per ragioni economiche loro, ma anche per una sorta di rappresaglia per l'atteggiamento dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nei confronti del loro paese. E quindi Francesca Sforza chiede a Sevkunov: come vivono i russi questa ostilità dell'Occidente? Sono i primi a riconoscere di essere lontani dalla perfezione, addirittura il nostro folklore trabocca di ironia e satira su questo tema. In questo senso anche lo sguardo esterno più malevolo ci stimola a guardarci ancora una volta in maniera autocritica, ma la cosa importante che molti specialisti della Russia non riescono a capire è che i russi contrasteranno sempre duramente qualsiasi imposizione esterna in qualsiasi sua forma. Ed è proprio qui che si cela il conflitto principale tra la Russia e l'Occidente ufficiale. La cosa neanche ci addolora, ci siamo tanto abituati da molti secoli, ma è sicuramente inaccettabile per tutti noi, dal presidente al semplice contadino, e avvertiamo questa cosa con molta nettezza, anche se non condiziona affatto il nostro atteggiamento benevolo e leale nei confronti di ogni paese e di ogni popolo. E poi l'ultima domanda, che trovo stupenda la risposta, la domanda è: lei è universalmente conosciuto come il confessore di Vladimir Putin, è un'etichetta difficile da portare? E Sevkunov risponde: che difficoltà ci dovrebbe essere? In ogni caso la responsabilità, qualsiasi cosa i giornalisti intendano con questa parola, impegna. E invece dall'Avvenire uno specchietto che dà l'idea di che gigantesco esercito abbia la Turchia, uno dei più grandi al mondo, che forze armate più che, cioè perché qui si parla di tutto, le forze terrestri, la marina e l'aviazione, su una popolazione di poco meno di 80 milioni, ci sono 35 milioni di persone idonee al servizio militare, 1.375 i giovani in età militare ogni anno. Il totale personale delle forze armate è 410.000 e il totale dei riservisti quasi 200.000. Questo lo trovate a pagina 5 dell'Avvenire. Poi un tema importantissimo, secondo me, sempre sull'Avvenire, quello delle reazioni della comunità islamica. E in questo caso Ilaria Sesana ha raccolto il parere di Sumaya Abdelkader, consigliere comunale a Milano. La comunità islamica prende le distanze. I giovani non vogliamo essere associati a chi uccide vittime innocenti. Dal giornale una interessante intervista a Edward Luttwak, che il giornale titola «Perché questo attacco è fallito? Avrebbero dovuto uccidere Erdogan». L'esperto di geopolitica aveva previsto tutto in un suo libro. Un errore è stato consentire al presidente di incitare alla resistenza, ma anche se non è chiaro come avremmo potuto proibire questa reazione di Erdogan. Dal Fatto Quotidiano invece un altro articolo interessante, un po' così sganciato dalla cronaca stretta. Roberto Zanini racconta un po' i golpe più famosi: la CIA, Allende, quindi il colpo di Stato appunto che depose Salvatore Allende, e Gorbaciov, il colpo di Stato, lo ricorderete, di Boris Yeltsin. C'era una volta il golpe contro i comunisti per banane, rame, greggio, così si facevano i colpi di Stato. Un altro approfondimento, un altro schema, un'altra mappa interessante che ci dà l'idea appunto in pochissimo, con uno sguardo di molte cose, la trovate a pagina 3 di Libero, e ci fa vedere quali sono le basi NATO in Turchia, e sono tantissime. Questo è una delle ragioni, l'importanza della Turchia sullo scacchiere geopolitico e militare internazionale, per le quali forse appunto le reazioni che Libero, Il Fatto, ma anche altri commentatori considerano molto tiepide o incerte dell'Europa e anche degli Stati Uniti, ecco, questa presenza di basi NATO, questo ruolo che la Turchia ha di appunto famosa cerniera tra est e ovest, pesa poi sulle reazioni a caldo, soprattutto a eventi come il golpe di venerdì. Torniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, cambiamo un po' argomento. A pagina 7 trovate una di quelle puntate di quello che noi chiamiamo Rating 24, che è un monitoraggio dell'attuazione delle riforme. Secondo, vengono prese in considerazione 16 riforme diverse. Vi dico soltanto questo, che mancano all'appello 303 decreti su 1.104 previsti, decreti di attuazione, senza le quali poi le riforme non hanno l'efficacia che potrebbero avere. Dalla prima pagina di Imprese e Territorio un approfondimento sulle telecomunicazioni, sulle linee ultraveloci, in cui sapete l'Italia è ancora molto indietro rispetto ad altri paesi. Pensate appunto al titolo: ultraveloce, meno di una linea su 10. Attime Fastweb, l'80% del mercato, continua il calo della telefonia fissa tradizionale, però siamo ancora, come dicevo, molto indietro rispetto ad altri paesi. Dal Corriere, dalle pagine interne del Corriere, del Corriere, nella sezione di economia, abbiamo ricordato sulla lettera dell'investitore di questa settimana di Vittorio Carlini e su Terna, e a pagina 33 del Corriere un'intervista all'amministratore delegato di Terna Delfante: pronti 6,6 miliardi di investimenti per lo sviluppo della rete elettrica, quindi quella CAPEX, Capital Expenditure, di cui parlava anche Vittorio Carlini. Sulla vicenda di Gianmarco Tamberi, il saltatore che dovrà rinunciare alle Olimpiadi, un bellissimo articolo di Gaia Piccardi a pagina 42 del Corriere: il volo spezzato, niente Olimpiade per Tamberi, domani potrebbe già operarsi, i compagni lo vogliono a Rio ma è oggettivamente molto difficile. È un ricordo di Yuri Keki, che è il campione di ginnastica, sapete, degli anelli in particolare, gli era capitato un po' la stessa cosa, e dice idealmente, dice a Tamberi: non si preoccupi, il sogno è spostato solo di 4 anni, quindi gli augura già una felice partecipazione alle Olimpiadi del 2020. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo invece una notizia molto curiosa, poi per chi ama i libri, le librerie, chi è stato a New York quasi certamente conosce Strand, questa grande libreria che vende soprattutto libri usati. Lo slogan è 18 miles of books, 18 miglia di libri, quindi circa 18 più 9, 27 chilometri di libri. Il quiz di letteratura per lavorare nella libreria più famosa di New York. È un articolo del New York Times che Repubblica ha tradotto per questo accordo che ha con il New York Times. Non basta il curriculum per essere presi come commessi da Strand, bisogna superare un test. E poi un'intervista sempre da Repubblica al premio Pritzker di quest'anno. Il premio Pritzker è un po' il premio Nobel dell'architettura, l'ha vinto Alejandro Aravena, un architetto cileno, e qui parla in particolare di Milano, e il titolo è Città generica per risanare le periferie, non servono edifici belli ma luoghi di incontro. È interessante perché appunto di sviluppo delle periferie si parla tanto, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha detto che ne farà una delle sue priorità, ed è in qualche modo una questione anche legata non solo al disagio sociale che quasi sempre c'è nelle periferie, ma anche al fatto che in molti paesi, la Francia è l'esempio migliore, o anche il Belgio, è proprio dalle periferie dove c'è questo profondo disagio che vengono poi i terroristi. Dall'Avvenire, sempre dalle pagine interne, sempre per cambiare un po' argomento, un approfondimento di Massimiliano Castellani su come l'andrangheta si stia infiltrando nel calcio. L'andrangheta va in pressing, il titolo, dai calciatori all'infiltrazione nelle curve. Ci sono inchieste che hanno lambito questa questione, e del resto le inchieste sull'andrangheta, come sappiamo, settimana scorsa hanno portato in carcere anche esponenti politici di altissimo livello. Vi dicevo, la questione dei migranti non così passata in secondo piano in questi giorni, però l'Avvenire aggiorna il bilancio. In luglio morti in mare 2 migranti al giorno, nel 2016 sono 2.933 gli annegati nel Mediterraneo. I numeri del drammatico bilancio fanno temere un'altra tragica estate, perché a questo punto si può già parlare di un raddoppio di questi morti in mare rispetto al 2015. E poi quello che vi dicevo, quella decisione dell'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe: la diocesi donerà ai poveri i suoi alloggi, e a Napoli ci sarà in gennaio l'incontro dei vescovi del sud sulla crisi del lavoro. L'annuncio del cardinale è stato alla presentazione della lettera pastorale, appunto Vestire gli ignudi, e per quanto riguarda invece il lavoro ci sarà questo incontro già tra l'altro il 19 luglio per combattere la disoccupazione, l'eterna piaga del sud, anche del nord da quando è iniziata la crisi, ma soprattutto del sud e soprattutto tra i giovani. Un fatto di cronaca e una storia di mala burocrazia impressionante a pagina 17 di Libero. Ricorderete il 12 giugno quando è esploso quell'appartamento a Milano, non lontano dal centro, in via Brioschi. In realtà quella fuga di gas che ha provocato l'esplosione era stata a sua volta provocata da Giovanni Pellicanò, e in quella fuga di gas è morta la moglie e sono morti anche due vicini. E adesso il titolo di Libero è: il papà killer toglie alle figlie anche i rimborsi, orfane di madre ustionate, le due bambine sono ancora in ospedale, non avranno indennizi perché sono parenti del responsabile dello scoppio. Coraggioso anche direi approfondimento sull'Unità di due pagine, che parte da un sondaggio di SVG che parla della rabbia nella polveriera sud che vuole cambiare, con tutti i punti problemi che hanno a che fare soprattutto con la disoccupazione e in particolare quella giovanile. Un altro approfondimento su due pagine, questa volta invece sul Fatto, pagine 16 e 17, su quello che con piccole variazioni viene chiamato reddito di cittadinanza, reddito di base, reddito minimo. Dati, soldi e proposte, quel che serve sapere sul reddito minimo. E c'è uno specchietto che fa vedere in quali paesi esiste, a che livelli è, come si chiama, ha appunto dei nomi leggermente diversi. In Gran Bretagna si chiama Income Support, in Germania si chiama Hilfe zum Lebensunterhalt, cioè un aiuto per un livello di vita normale. In Francia si chiama Revenu de Solidarité, ed è appunto interessante perché fa capire come in tanti paesi con nomi diversi ci sia già questa misura, che in Italia non è stata introdotta ma solo in parte. Ci fermiamo però un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della rassegna stampa, quella che dedichiamo ai supplementi della domenica. E per collegarci a quelli vi cito un ultimo articolo del Fatto Quotidiano, che insomma riguarda un cartone animato che mi è un personaggio dei fumetti e dei cartoni animati che mi è molto caro, perché c'era già quando io ero bambina, e sono i Barba Papà. Ambientalisti eppure transgender, i Barba Papà sono ancora avanti. Il successo intramentabile dei pupazzi figli del maggio francese, quindi appunto nati alla fine degli anni 60, 8,94% di share, dove vanno in onda tra capelloni, papà rosa confetto e la gestazione per conto d'altri, un mito che va oltre i giudizi. E naturalmente il disegno è quello dei Barba Papà. Veniamo ai supplementi appunto culturali. Cominciamo come sempre dal nostro, la Domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Un granello di sabbia. E la citazione è da una novella di Itzhak Leib Peretz, uno dei maggiori scrittori yiddish mitteleuropei. E la citazione è questa: visse come un granello di sabbia incolore sulla riva del mare, confuso tra mille suoi simili. E quando il vento sollevò il granello di sabbia e lo trasportò dall'altra riva del mare, nessuno se ne accorse. Amara metafora della vita di Bonce il Silenzioso, il protagonista appunto di questa novella. Coperto di umiliazioni fin da quando era bambino, emarginato e vittima di ogni sorta di ingiustizia, Bonce non aveva mai emesso un lamento o una protesta. La sorpresa sua e nostra sarà, però, oltre la frontiera estrema della sua morte ignorata da tutti. Là, infatti, le sorti si rovesceranno. In questa immagine del granello di sabbia c'è purtroppo la storia di tanti uomini e donne che silenziosamente trascinano il carro pesante della loro vita. Passano accanto a noi e sono ignorati, non osano stendere la mano, non implorano un conforto, forse solo un cane lambisce le loro piaghe, come nella parabola del povero Lazzaro narrata da Gesù. Non lasciamo che sia solo Dio ad accorgersi di loro. E poi la rubrica Memorandum del nostro direttore, del Sole 24 Ore di Radio 24, si intitola Storia d'impresa in un nord-est che prova a cambiare, e Roberto Napoletano racconta di questi incontri che ha avuto a Oderzi, nel cuore industriale di Treviso, che è stata la terza tappa del viaggio nell'Italia che innova, che il Sole 24 Ore sta facendo. La copertina vera e propria prende spunto da un libro di Francesco Cassata pubblicato da Einaudi, che si intitola Fantascienza, Science Fiction. Il titolo le una vita da fantascienza, perché in particolare Massimo Bucciantini ci racconta come due opere di Primo Levi, Le storie naturali del 66 e Vizio di forma del 71, fanno i conti planetari con l'immaginazione e il senso del possibile del chimico scrittore, perché ricordiamo Primo Levi è stato un grandissimo scrittore, ma era anche laureato in chimica. Sempre dal Sole 24 Ore un'altra bella recensione al libro di Tullio Gregori su Michel de Montaigne, il grande filosofo francese vissuto tra il 1533 e il 1592, ma modernissimo. La libertà risiede nel dubbio, contro la presunzione del possesso esclusivo della verità e gli intolleranti dogmatismi che ne conseguono, il pensatore approdò alla relativizzazione di ogni forma di sapere. Sempre dal Sole 24 Ore la recensione di una bella mostra che si è appena aperta a Milano e che resterà aperta fino al 28 ottobre nella Galleria del Credito Valtellinese, ed è dedicata a Muybridge. Forse non vi dice tanto il nome, però è quel fotografo del secolo scorso che immortalò i movimenti di persone, di animali. In questo, quella che la foto che il fotomontaggio che pubblica il Sole 24 Ore è di un uomo a cavallo, per mostrarne tutti i propri movimenti anatomici, una sorta di Atlante illustrato al quale ancora adesso molti studiosi di anatomia fanno riferimento. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, dedica la prima pagina, affida la prima pagina a un artista, questa settimana Elisabetta Benassi. All'interno vi segnalo un bell'articolo di Marco Rizzi che prende spunto da due libri, e il titolo è Atei affamati di spirito, la fede dei millennials. Sapete, per millennials si intendono i nati tra più o meno il 1980 e il 2001, quindi ragazzi giovani, molto giovani. Le nuove generazioni si staccano dalle credenze tradizionali, raccontano in questi due libri Franco Garelli, Piccoli atei crescono, e Ilario Bertoletti, Ideal tipi dell'ateismo, ma riconoscono piena legittimità alle domande sulla trascendenza. Una molto interessante, un approfondimento di Vincenzo Trione, critico d'arte e curatore anche dell'ultima Biennale d'Arte di Venezia, del Padiglione Italia, che ci racconta che cosa sta succedendo in Africa sulla scena artistica. E il titolo è Il nuovo Kunz, cioè Jeff Kunz, uno dei più importanti, dei più famosi, dei più chiacchierati anche artisti contemporanei. Il nuovo Kunz, che è naturalmente Jeff Kunz, è americano, arriverà dall'Africa, ma solo se saprà essere africano. E c'è a pagina 29 della lettura un grande schema che divide tutti gli artisti in local, scenici, realisti visionari, astratti, rituali, militanti e neo-tribali, con i relativi paesi di provenienza. Un articolo interessantissimo di Stefano Montefiori da Parigi, soprattutto per chi ama la musica e in particolare il pianoforte. Il pianoforte cresce 102 tasti, così la musica ha un altro suono. Per superare il modello standard dello Steinway, uno dei più famosi produttori di pianoforti al mondo, artisti e ingegneri stanno elaborando nuovi strumenti. Per esempio il francese Stéphane Polelot: ho svegliato una bella addormentata da 150 anni. Però in Italia c'è un altro studioso, Paolo Fazioli, in Germania c'è David Clavins e poi in Australia Wayne Stewart. E questo ci racconta appunto Stefano Montefiori, che ha intervistato questo esperto a Parigi. La Domenica della Repubblica ha una copertina dedicata a Joan Baez, la cantautrice, e il suo claim più famoso, We Shall Overcome, cioè riusciremo a farcela, riusciremo a vincere, noi ce la faremo, traduce Emanuela Audisio. Ecco perché le parole del sogno di integrazione di ieri oggi non solo sono sempre attuali, ma addirittura fondamentali. E qui ci si lega con l'attualità, naturalmente, a un altro tema che è stato oscurato dai gravissimi fatti di inizio di giovedì e dal golpe in Turchia di venerdì notte, che è quello degli scontri razziali negli Stati Uniti. Per le interviste Straparlando, la serie delle interviste della domenica su due pagine illustrate da Riccardo Mannelli sulla Repubblica, questa settimana tocca a Edoardo Bisiac, lo ha intervistato Antonio Gnoli come sempre, è un neuroscienziato di fama mondiale, ma forse non è stato altrettanto abile, si intuisce un po' dalle risposte che dà, ad autopromuoversi, ad autopromuovere il suo pensiero, la sua opera, come invece ha fatto Oliver Sacks, scomparso l'anno scorso, il grande scienziato, neuroscienziato e divulgatore. E il virgolettato scelto per titolare l'intervista è: Sacks mi ha copiato, ma almeno lo ha fatto bene. E poi naturalmente ripercorre, come sempre in queste interviste, la sua storia di scienziato e di uomo. Macro del Messaggero dedica la copertina a Elizabeth Strout, una scrittrice, il suo ultimo libro è appena uscito in Italia. E il titolo è La mia scrittura, arte sociale. Trovare le parole giuste, a volte spietate, per descrivere qualcosa riesce a far emancipare l'animo e a cambiare il destino. Questa è la storia di Lucy Barton, che è la protagonista appunto dell'ultimo romanzo di Elizabeth Strout, che da un rapporto malato con la madre diventerà autrice di libri. Un altro virgolettato: scrivere è uno sforzo immenso che si impara solo provando, ma per me è un gesto politico forte. E poi dal Messaggero, anche se poi lo trovate anche su altri giornali, la cronaca del concerto che c'è stato ieri sera di Bruce Springsteen a Milano. Ha fatto due date, poi c'è stata la data di Roma, 60.000 al circo massimo, un concerto che travolge il pubblico per quasi 4 ore con tutti i classici, e il Messaggero lo definisce il gladiatore del rock. Abbiamo citato i millennials, cioè quella generazione di nati tra circa il 1980 e il 2000, interessante questo approfondimento di Antonio Galdo sul Messaggero. Sostenibilità, la bussola dei millennials, bio, eco-friendly e a basso impatto ambientale, ecco i cardini dei giovani che orientano il marketing. Ci sono in effetti molti sondaggi che indicano come appunto i più giovani, i millennials, siano molto attenti a questi temi e che addirittura siano disposti a pagare di più dei prodotti se le aziende che li fanno, li vendono, riescono a dimostrare che appunto c'è questa sostenibilità, che è sostenibilità ambientale ma anche sociale. Sempre per i supplementi domenicali, Alias del Messaggero ha come sempre una recensione unica in copertina. In questo caso è una recensione a un libro che si chiama La legge del sangue di Johan Chapotou, Pensare e agire da nazisti, ed è l'ennesimo tentativo di capire un altro grande mistero, che è quello appunto di come il nazismo abbia conquistato la maggioranza dei tedeschi a partire dal 33, anno dell'ascesa dell'insediamento di Hitler, fino naturalmente alla Seconda Guerra Mondiale e alla tragedia dell'Olocausto. Mentre compone un'accurata cartografia del discorso nazista, Johann Chapotou sottrae a quel crimine, a quella colpa, ogni pretesa di eccezionalità. Quindi un po' il fatto, forse ricorderete quella citazione fatta in Anna e le sue sorelle di Max von Sydow: non mi stupisco dell'Olocausto, mi stupisco che non ce ne siano stati di più. Un'ultima segnalazione sempre dal manifesto, dall'alias supplemento del manifesto, della nuova traduzione di uno dei romanzi più famosi di Tolstoj, l'Anna Karenina. È una traduzione nuova che viene definita più bella che vera. La strategia della traduttrice è dire di più per suonare meglio, ma così rompe la magia di una sintassi che, sommando pesantezza e fragilità, rispecchia la nobiltà russa. Bisognerebbe leggere sia la vecchia traduzione che questa. Questa è quella di Claudia Zonchetti, appena pubblicata da Einaudi, e poi farsi un'idea. Sicuramente tradurre è sempre un po' tradire, come si dice, e soprattutto è un mestiere difficilissimo. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, e ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.